Bonsoir. Oui, je suis Catherine Deneuve. Non, elle est belle. Quel est ce record, belle de jour? Dai, trasportata in carrozza al bois de Bologna, li frustata dal cocchiere mentre il marito guarda e gode. Buñuel, un genio. Non le somiglio affatto. A parte che anch'io ricevo dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Ma io parlo per le... Oh merda, come le chiamate voi già qui? Quelle bruttine, quelle très moches, le... Ah voilà, le inscopabili. E le mal scopate. Io parlo per le vecchie, per le racchie, per le camioniste, per le frigide. Ma non ho neanche nulla contro quelle che rientrano nel mercato della bella donna. Metto subito le cose in chiaro. Io non mi scuso di niente. Non intendo lamentarmi di niente. Non cambierei il mio posto con nessun altro. Perché essere me mi pare una faccenda molto più interessante da portare avanti. Più di qualsiasi altro. Non sono una borghese repressa. Non sono neanche una santa mignotta. Ho una vittima sfruttata da compiangere, gettata sul marciapiede. Non sono una escort di lusso. Io sono, potrei dire, una lavoratrice del sesso. Spontanea. Faccio quello che non si fa. Sono pagata per questo. Mi presento, mi chiamo Virginie e sono un vero attentato alla dignità femminile. Alla gente piace fare la faccia incredula quando dico di fare la puttana. Ah, mon Dieu! Ma è come quando racconto dello stupro. Una grande ipocrisia. Avevo 17 anni, una faccia da schiaffi e un look tendente al dark. Tornavamo da un concerto punk, io e una mia amica, e abbiamo perso l'ultimo treno. Abbiamo fatto l'autostop. Tanto io ho una faccia da schiaffi e un coltellino a serramanico nella tasca, lama lunga e affilata. Non ho nemmeno provato a tirarlo fuori poi. Avevo paura che mi sfregiassero anche la faccia. Non ne ho parlato per anni. Non potevo sopportare quegli occhioni impietositi. Poverina, chissà che trauma. E loro l'hanno fatta franca. Li avete feriti, li avete ammazzati. No. No. E vedi insinuarsi un dubbio nei loro occhi. Attenzione. Forse eravate consenzienti. Dopo qualche anno hanno stuprato una mia vicina di casa mentre buttava l'immondizia. E il fantasma è venuto a galla con tutti i suoi sensi di colpa. Hanno cominciato a parlarne in televisione. Gli opinionisti. Tutte quelle storie sulla donna che è troppo forte. Allora l'uomo poverino è in crisi e si rivolge alla violenza. Si rivolge! Questo termine usano. Alla violenza. Gli avvento 20 anni che ascolto queste cazzate. Io mi domando solamente perché nell'epoca del Bluetooth, del wireless, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Pinterest, n'importe quoi, non abbiano ancora inventato un piccolo aggeggio che ti infili nella fica. E se qualcuno prova a entrarci senza tuo consenso, za, za, za, za, za. Tranche. La prostituzione è stata fondamentale per la mia ricostruzione. Assurdo, no? Terapeutica. Una sorta di risarcimento. Banconota dopo banconota. Lei appartiene solo a me. Non perde di valore a mano che viene utilizzata ed è redditizia. Argent, savez? Et comme disait Richelieu, c'est l'argent qui fait la guerre. C'est l'argent qui fait la guerre. Écoutez. Pardon. Pardon. Secondo le signore dei salotti, le prostitute, se potessero scegliere, non lo farebbero. Ma che retorica! Come se invece le estetiste spremessero punti neri per pura vocazione estetica. Bon, bisognerebbe spiegare alle signore dei salotti che il contratto coniugale non è che un mercato in cui la donna si impegna ad effettuare un numero infinito di corvée per garantire il comfort del uomo a delle tariffe che sfidano qualsiasi concorrenza. In particolare per le prestazioni sessuali. Io fatico, veramente fatico, a comprendere la differenza tra il corpo di una prostituta e quello di una precaria salariata senza il minimo dei diritti garantiti. Quando lo ero depressa, per il tempo che perdevo, per il poco che guadagnavo. E guardavo le signore, quelle più grandi di me, le fortunate a stipendio fisso. Tutta una vita a sgobare per un salario appena incrementato e che si fanno insultare dal capo reparto perché troppo spesso in bagno a pisciare. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, intuivo cosa voleva dire una vita da onesta lavoratrice. Onesta! Ironia della sorte. Lavoravo per un server del Minitel, un precursore di Internet. Mi occupavo di sorvegliare che non entrassero nella rete i discorsi dei razzisti, dei pedofili e delle puttane. Razzisti, pedofili e puttane. Bon, loro non c'entravano con la mia vita, un po' di tu. Non pensavo ci si improvvisasse, puttana. Pensavo ci fosse una sorta di iniziazione. Un passepartout dato loro che apriva nuove dimensioni. Ma poi leggevo le cifre e l'attrattiva del guadagno e la curiosità, voilà, primo appuntamento, primo cliente. La rivoluzione consiste in piccoli accessori: tacchi a spillo, calze a rete, reggicalze. È stupefacente il potere di questi feticci. Ehi, attraversi la strada, entri nel metro, ti siedi in un s'il vous plaît, caffè, bar, e improvvisamente ti senti detentrice di un tesoro furiosamente ambito. Lo spazio tra le mie cosce. Sarà fortuna. Gli uomini come sono sempre piuttosto affabili. Sapete, non è con la loro aggressività che è difficile entrare in contatto, ma con la loro fragilità, con i loro denti gialli, con la loro carne vecchia e flaccida contro la mia giovane, con la loro tristezza, con la loro timidezza infelice, con la loro vulnerabilità, come se nessuno gli avesse mai detto che Babbo Natale non arriverà. Loro tracciano sul mio corpo una riga che mi divide in due. Da una parte la mamma, mamma, e dall'altra la puttana. E come dei veri colonizzatori non tengono conto del territorio e dei suoi indigeni. Cioè io. E questo non è un discorso naturale. Questa è una precisa volontà politica. È il grande corpo sociale che vuole inglobare il mio e farlo suo figlio. Ma io non lo sono. Io non sono rassicurante. Io non sono un'ombra o una proprietà. Io non sono. Non sono una ragazza perduta. Una portatrice sana di sensi di colpa. Io sono libera. Nel mio conflitto. E qui, qui non si tratta solo di vaghe promozioni dei pompini, del cunilingus, dello scambio di copie. Qui non si tratta neanche di migliorare i salari integrativi, solamente o di contrapporre alle piccole acquisizioni degli uomini le altrettanto piccole acquisizioni delle donne, ma piuttosto di mandare tutto all'aria. De tutto foutre en l'air. Di mandare tutto all'aria. Mesdames et messieurs, qui si tratta piuttosto di mandare tutto, ma proprio tutto all'aria.